bellezze ne siem cole fonde. Eccellenza, vado! Al tuo piacere! Vieno e paniere, fa penitenza! Fame non ho! Oh, mi rincresce! Va di qua, ne esce più, da! Va! Oh. Thank you. io sei contento tanto. Torno lo dire tanto. Lo dici male, lo dici male. Non posso spero nostro caso etto di tutto. Thank you. Scarpia. Va, Tosca. Non posso Mosca un buon falco, certo a quest'ora i miei segugi le due brevi azzannano. Doman sul palco vedrà l'aurora angelo che il bel Mario allaccio penderà. Mosca e a palazzo, uccia bellana, uccia buona in faccia. Apri. Tarda è la notte. Alla cantata ancor manca la diva e strimpellan gavotte. Tu attenderai la tosca in sull'entrata. Le dirai ch'io l'aspetto finita la cantata. O meglio, le darai questo biglietto, ella verrà. porta con nova i lamenti. Pozzo del giardino va, spoletta! Oh! rotta. Così accasciata via, mia bella signora, sedete qui, volete che cerchiamo insieme il modo di salvarla? E allora, se vede, e falliamo. Intanto un sorso, e vin di Spagna, un sorso per rincuorare. Quanto? Quanto? Il prezzo! Ciò mi dico però. Il tempo passa, sai quale oscura opra laggiù si compia. Là si drizza un pochino. Colpo Mario per tuo voler non resta che un'ora di vita. Thank you. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播 古典有限频道下面的精彩节目。 Thank you.